La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Donne, crisi, questo un po' è il tema della puntata, ma soprattutto anche donne nel mondo dell'imprenditoria, in un momento che sappiamo essere di crisi. E prendiamo spunto dal terzo forum cultura d'impresa del nostro giornale, Il Sole 24 Ore, che ci sarà il 30 marzo a Milano nella sede del giornale a via Monterosa. E prendiamo spunto anche dal rapporto che la nostra Laura Laposta, caporedattore del Sole 24 Ore, fa ogni anno su donne e lavoro, un rapporto meticoloso. Quali sono le novità di quest'anno? Come la crisi avvantaggia o peggio svantaggia le donne? Buongiorno Laura. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. La crisi è una grande sfida per le donne italiane, e sotto il profilo naturalmente dei lavori più precari, naturalmente le donne che hanno la maggiore quantità di contratti a tempo determinato, la maggiore percentuale di contratti a tempo determinato, tremano davanti alle riduzioni di personale in atto in molte aziende italiane. Però a guardarla in positivo si emergono anche dei segnali di autoimprenditorialità forti, molte donne che si mettono in proprio, aprono negozi, molte immigrate, abbiamo dei dati sulle donne immigrate che in questo momento stanno registrando partite IVA e si stanno dando da fare per aprire negozi, piccole attività imprenditoriali, anche da badanti, e questo è un dato sicuramente che può essere visto come incoraggiante. E poi c'è la grande sfida delle manager. Su questo fronte l'Italia sconta tanti pregiudizi e tante anche discriminazioni, tanti errori anche compiute dalle manager italiane in passato, ma stavolta le sconta in positivo. Ah, quindi c'è un dato positivo nella crisi per le donne, attenzione, sì, questo bisogna sottolinearlo. C'è un dato che, se vogliamo, è positivo, perché tra i 9.000 manager licenziati indicati con grande allarme da Federmanager, in realtà a guardare i primi dati sembrerebbe che siano quasi tutti uomini, perché per un motivo molto semplice: innanzitutto il 93% dei dirigenti italiani è uomo, solo il 7% è donna, e poi questi manager sono più pagati delle donne, quindi a parità di qualifica un uomo solitamente ha uno stipendio in parte variabile, con la parte fissa magari è uguale, ma nella parte variabile affidata alla contrattazione tra le parti, quella parte variabile avvantaggia di solito gli uomini, e proprio questi dirigenti in questo momento pagano il prezzo più alto della crisi, perché sono i primi a essere licenziati. Se fate caso alle loro spalle, anche nelle riunioni compaiono all'improvviso, quando i numeri uno si alzano, poi i numeri due continuano tutte le trattative, e sono sempre donne le numero due. E quindi uno studio Federmanager indica che nel 54% dei casi questi manager che vengono accompagnati alla porta in momento di crisi come questo vengono sostituiti dai loro numeri due, e sono moltissime donne, in ampia percentuale. Queste donne naturalmente non saranno promosse subito al ruolo dirigenziale, ma si troveranno a dover gestire, come è successo nel nostro paese durante le guerre mondiali, quando andavano al lavoro le donne mentre gli uomini andavano a fare la guerra, stavolta le nostre manager scenderanno in trincea per prendere in mano moltissime imprese italiane nella loro operatività quotidiana, e a quel punto avranno una loro vetrina, avranno un'opportunità quando la crisi sarà passata tra 2-3 anni, speriamo che abbiano nel frattempo imparato a negoziare le loro promozioni e a riscuotere benefici. I crediti. Allora Laura, ecco. Invece il terzo forum cultura d'impresa del Sole 24 Ore sarà su talento e leadership femminile nel cambiamento e nell'innovazione. Quali sono le novità di quest'anno? C'è anche un master. Sì, quest'anno, allora il 30 marzo nella sede del Sole 24 Ore a Milano ci sarà il terzo forum cultura d'impresa, e tutte le informazioni sono nel sito internet del Sole, www.ilsole24ore.com, nella sezione formazione, perché questa è un'occasione di formazione per le donne, e in passato 1300 donne hanno partecipato alle prime due edizioni cumulativamente, e quest'anno aspettiamo con una formula diversa altre donne, altre manager, altre professioniste, anche donne che vogliono mettere su un'attività professionale ex novo, perché no? E affronteremo il tema non solo della crisi, ma anche dei talenti e dell'innovazione. E le donne sono da sempre leader nell'innovazione e nei laboratori di ricerca, tra i camici bianchi ci sono moltissime donne e di questo ci parlerà ad esempio Laurence Parisot, la presidente di Confindustria francese, che è il MEDEF, che verrà a confrontarsi e a raccontarci la storia delle donne francesi e come stanno reagendo alla crisi e la sfida anche che si pone davanti a loro sul fronte della responsabilità sociale, su cui sono tipicamente più sensibili degli uomini. E poi ci sarà Kathleen Kennedy Townsend, la scrittrice, già governatore del Maryland, della famiglia Kennedy, che ci parlerà delle politiche di Obama, Barack Obama, sul fronte della leadership femminile. Ricordiamo che il primo atto compiuto da Obama è stato firmare una legge a favore della parità salariale tra uomo e donna, e quindi abbiamo finalmente un presidente degli Stati Uniti, non dico femminista, ma semplicemente normale, un uomo normale che ha due figlie e vuole garantire loro un futuro di pari opportunità con gli uomini. Insomma, ci sono molte novità. Laura, noi ti invitiamo a restare con noi per tutta la puntata, ovviamente, e vorremmo capire bene. Tu ci hai detto le donne potrebbero, in un aspetto chiaramente manageriale alto, essere avvantaggiate da questa crisi perché gli uomini sono i manager più pagati, le donne possono invece avanzare perché sono un po' i numeri due, in quanto gli uomini vengono poi licenziati, cioè i manager alti. Linda Laura Sabatini, responsabile della direzione centrale Istat, buongiorno. Buongiorno a voi. Noi la disturbiamo anche se è colpita dall'influenza che colpisce donne e uomini, statisticamente mezza Italia sta a letto. Scusate la voce. Statisticamente anche il direttore dell'Istat sta a letto. Allora, le vogliamo chiedere quali sono un po' gli svantaggi che ci trovano impreparati, no, in Italia a questa crisi, soprattutto sul fronte dell'occupazione femminile o della disoccupazione femminile. Insomma, le donne in Italia come sono messe e abbiamo dei ritardi rispetto ad altri paesi? Purtroppo sì, la nostra non è una situazione positiva messa a confronto con gli altri paesi europei, perché noi abbiamo un tasso di occupazione femminile che è tra il 46 e il 47%, adesso vedremo il 20 quando daremo i dati dell'ultimo trimestre, quale sarà il dato medio dell'anno, però il problema è che siamo penultimi in tutta Europa, e il problema che c'è stato è che non siamo riusciti a sfruttare fino in fondo la fase di crescita dell'occupazione femminile, che pure c'è stata nel nostro paese, ma non ai ritmi di cui ci sarebbe stato bisogno. Cioè, quello che è successo è che nel nostro paese c'è stata questa crescita di occupazione femminile che è stata fondamentalmente concentrata nel centro-nord del paese. Il sud ha preso le briciole di questa crescita, pochi spiccioli, per cui si è accentuata la differenza territoriale, che come sappiamo è uno dei problemi più gravi del nostro paese. Si è accentuata la differenza territoriale anche tra le opportunità delle donne, per cui ora ci troviamo con un centro-nord dove il problema centrale è quello ovviamente ora della conciliazione, lavoro, tempi di vita, perché le donne si sono inserite massicciamente nel mondo del lavoro, e con un sud in cui le donne non arrivano neanche al 40% di tasso di occupazione. E questa situazione ci vede lontani da altri paesi, ma anche da altri paesi che erano prima simili a noi, cioè un paese come la Spagna, che nel 94 stava addirittura alle nostre spalle come tasso di occupazione femminile, stava 4 punti sotto, 10 anni dopo stava già qualche punto sopra noi, adesso è arrivata al 51%. Ovviamente si risentirà anche la Spagna della crisi da un punto di vista dell'occupazione femminile. Il problema è che noi ci arriviamo già con questo svantaggio, con questo problema di non essere riusciti a sfruttare la fase di espansione del settore dei servizi e di crescere l'occupazione femminile, riducendo le differenze tra nord e sud. Purtroppo da noi le differenze tra le donne si sono amplificate. Ecco, abbiamo sentito, lei ha detto l'occupazione al sud, questo è il problema. Ricordiamo che anche il ministro del welfare, Maurizio Sacconi, intervenendo alla Camera, ha detto appunto che l'occupazione è al 59%, un dato superiore dall'inizio del decennio. Che cosa vuol dire esattamente? Cioè l'occupazione è aumentata o non è aumentata? Ci vuole spiegare lei come statistica? Questo è vero, siamo intorno al 59%. Però ci stavamo anche l'anno scorso al 59%, no, questo è verissimo. Tra l'altro un elemento che ha contribuito in questi anni alla crescita dell'occupazione, ci sono stati tre elementi importanti. Un grosso contributo è stato dato dalla componente immigrata, che ha contribuito notevolmente sia per la parte maschile ma anche per la parte femminile. Un secondo contributo è stato dato dalla componente dei tempi determinati, che è stata in crescita, e un terzo punto importante è stato dato dalla componente di permanenza nel mondo del lavoro degli ultra cinquantenni, che ovviamente alla luce dei cambiamenti che ci sono stati, delle leggi sulle pensioni eccetera, ritardano l'uscita dal mondo del lavoro. Questi tre aspetti messi insieme hanno contribuito al fatto che c'è stata comunque una crescita di occupazione in questi anni. Quello che però è successo ovviamente è che il ritmo di crescita dell'occupazione con l'arrivo della crisi è diventato un ritmo sempre più blando, sempre più debole, no? Quindi nel primo trimestre abbiamo avuto un più 1,4, nel secondo un più 1,2, nel terzo un più 0,4, cioè praticamente un tasso di occupazione che era quasi, diciamo, arrivato al limite. Ecco, prima di dare la parola alla regia e prima di dare la parola agli altri ospiti, io le voglio fare un'ultima domanda, perché so che lei sta veramente male, ora a parte tutto. Lei concorda con Laura Laposta che a livello alto la crisi potrebbe avvantaggiare le donne, perché le donne sono i numeri due e vengono licenziati i numeri uno? Noi non è che vogliamo per forza che venga licenziato qualcuno, però fatalità, insomma. Diciamo che questa è un'ipotesi interessante che dice la Laposta. Ovviamente dipende dai settori in cui dipende dai settori di cui stiamo parlando, dalla grandezza delle imprese di cui stiamo parlando, perché in alcuni casi anche i numeri due saltano, voglio dire, no? Quindi bisognerà fare un'analisi che più approfondita rispetto alle varie segmentazioni. Quello che certamente può essere critico per le donne è che, come sappiamo, le donne, soprattutto da un punto di vista del lavoro indipendente, sono di solito alla testa di imprese più piccole delle altre e quindi potrebbero risentire un po' di più delle difficoltà, perché quello che sta emergendo poi in questi mesi è che sono proprio le piccole che hanno le maggiori, no, difficoltà soprattutto nel settore della manifattura, oppure gli artigiani, i commercianti. Quindi da questo punto di vista una cosa appunto è il livello dei manager, l'altra cosa poi è porre l'attenzione al complesso dell'economia e di come colpirà i diversi e come sta colpendo i diversi settori. A questo proposito penso che il comunicato che daremo stampa sull'andamento del mercato del lavoro del 20 sarà molto importante. Noi sappiamo che voi prima del 20 non rivelate nulla, quindi purtroppo non possiamo dare delle anticipazioni. Noi salutiamo la dottoressa Linda Laura Sabatini, responsabile della direzione centrale dell'Istat, che ringraziamo per essere stata con noi anche in un giorno di febbre. La quota rosa. E torniamo a parlare di donne e crisi. Ricordiamo che comunque il nostro giornale Il Sole 24 Ore lancerà il terzo forum Cultura d'impresa, talento e leadership femminile nel cambiamento e nell'innovazione, e come moderatrice ci sarà la nostra Laura Laposta, caporedattore del Sole 24 Ore e curatrice di Donne e Lavoro, che è con noi in linea oggi. Ma prima di ridare la parola a Laura Laposta vorrei far intervenire Alessandra Servidori, componente del Comitato Consultivo Pari Opportunità della Commissione Europea. A che punto è l'Italia rispetto al resto d'Europa nelle pari opportunità e come questa crisi influenza negativamente o positivamente il genere femminile? Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno alle due lauree in questo caso, ci ascoltiamo, ho ascoltato attentamente gli interventi, mi dispiace di non poter essere in un telefono fisso, ma sono in un giardino tra una lezione e l'altra universitaria, quindi chiaramente… È una donna impegnata nel mondo sì, del lavoro, sì, anche certo. un impegno alto, quindi… E infatti la ringrazio di questo coinvolgimento. E proprio però ricollegandomi a quello che hanno detto le due colleghe, è intanto incoraggiante la distribuzione per genere dei manager. In Italia nel 2001 le donne erano il 17,8%, nel 2006 la quota femminile è salita al 32,9%, quindi come posso dire, ottimismo, signore, ottimismo, mentre gli uomini sono scesi dall'82,2% al 67,1%. Quindi il dato è sostanzialmente allineato con quello della UE a 27 e devo dire che apprezzo moltissimo appunto l'incipit di Laura Raposta, la quale diceva ci sono buone speranze. Sicuramente noi siamo per l'azione positiva a 360 gradi e non sulla pelle dei maschi, però questo dato, questo trend ci deve far riflettere su come galoppano le donne con una costanza veramente granitica nel mercato del lavoro. Come siamo messi in Europa? Siamo messi, come lo diceva prima Laura Salatini, ed è chiaro che purtroppo questo è il dato di fatto, siamo inchiodati al 47,2% dati di occupazione femminile, con un apprezzabile comunque aumento, fino a pochi mesi fa eravamo al 46,8, quindi il 47,2 è comunque da apprezzare. Siamo inchiodati rispetto all'Europa, che invece è molto avanti, e soprattutto siamo assolutamente inadeguati all'obiettivo di Lisbona 2010 del 60%, così come siamo inadeguati però anche all'occupazione in generale del 70%, nonostante le buone notizie che il ministro Sacconi ha sottolineato di questo 59% di occupazione, ma siamo ancora inadeguati ancora rispetto ai lavoratori adulti, perché l'Europa ci chiedeva di avere comunque i lavoratori adulti, quindi i cinquantenni, insomma, intorno al 50% come occupazione. Quindi c'è da rimboccarsi le maniche, c'è da tenere in una qualche maniera ben presente che alcuni sistemi di welfare hanno premiato, lo diceva Laura Sabatini prima, ma hanno premiato le donne perché hanno spostato in maniera considerevole i sistemi di protezione, di iperprotezione, a sistemi invece di politiche del welfare e del workfare, quindi di politiche attive che hanno consentito alle donne di rimanere sul mercato del lavoro, non solo di entrare ma di rimanere. Un esempio per tutti, sempre lì riprendendo Laura Sabatini, è la Spagna che è andata avanti, straordinaria, però ecco, non guardiamo a Obama come se fosse, come posso dire, no, perché noi abbiamo una legge sulla parità retributiva salariale di Tina Anselmi, che è la mitica primo ministro donna, ma no? Non solo, madre costituzionalista, nel senso che non dimentichiamoci che queste donne sono state straordinariamente maestre di vita, di lavoro, e quindi sono state coloro che hanno prodotto la nostra Costituzione, che è la nostra cattedrale, perché sono state appunto coloro, uniche donne insieme a Nilde Iotti, che hanno costruito la Costituzione italiana. Lei nel 77 fece la legge, che però non è agita, non è usata, è in Italia, non è in una qualche maniera applicata. Quindi prima di guardare Obama come se fosse, come posso dire, la soluzione, noi avevamo già Tina Anselmi. Ecco, questo lei ci sta dicendo, noi non dobbiamo guardare Barack Obama per opportunità salariali, noi avevamo già Tina Anselmi. Ha capito? È questa la cosa. Noi abbiamo un'ottima legislazione, abbiamo una timidezza e un sistema omertoso che non consente alle donne di tirare fuori la testa, perché c'è una cultura ancora profondamente ambiente, insomma, come familistica, no? Le donne meglio che siano a casa, le certo. donne invece come non mai sono sul mercato del lavoro. E nell'ultimo rapporto OIL, quindi non dimentichiamoci che noi siamo abituati appunto a lavorare come Laura La Costa e Laura con i dati, con i dati, brava, perché i numeri non sono un'opinione, dicono la verità, ci dicono che le donne saranno comunque nel mercato del lavoro e lavoreranno ancora di più, nel senso che avranno anche 2 o 3 lavori pur di contribuire a innalzare il prodotto interno lordo di questo nostro paese. Perché è vero, noi apprezziamo assolutamente le analisi del governatore della Banca d'Italia, che è Draghi, che ci dice che se le donne fossero al 60% nel mercato del lavoro, il nostro PIL avrebbe un innalzamento enorme del 17% in più, no? Se noi avessimo un'occupazione del 60%. Noi di questo ne siamo assolutamente consapevoli, bisogna evidentemente serrare le fila e fare in modo che tutta una serie di dispositivi, dai servizi alla persona, al potenziamento di una serie di flessibilità di tipo contrattuale, a un'attenzione alle aziende come la Luxottica o altre aziende che hanno messo in pista un sistema di organizzazione del lavoro, un sistema di convenzione con i servizi del territorio che consente alle donne di stare all'interno del mercato del lavoro, ha un sistema di bilateralità che comunque è indicato dal governo italiano come un sistema che... Insomma, lei non la vede così nera, non la vede così. No, io penso che noi abbiamo tutte le condizioni per andare avanti. Ma anche produrre, cara collega, un sistema nuovo, cioè da questa crisi può venire quella forza e quel coraggio e quella determinazione che ci consente di usare finalmente gli strumenti di tipo legislativo, normativo, contrattuale e anche sociale che abbiamo a nostra disposizione. Allora, Tiziana Pompei, dirigente Union Camere, condivide queste tesi? Abbiamo sentito questo importante appunto che ci faceva Alessandra Servidori. Anche noi abbiamo una legge addirittura del 67 a firma Tina Anselmi sulla parità salariale. Insomma, che cosa ci manca poi e come sono i dati a sua disposizione riguardo alle donne e questa crisi? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, decisamente i dati che abbiamo noi a disposizione, che derivano dall'osservatorio sull'imprenditoria femminile che è realizzato dall'Union Camere, che realizza appunto queste indagini semestrali e consente una lettura di genere della presenza dell'impresa femminile in Italia, ci danno delle indicazioni abbastanza confortanti, quindi mi sento di condividere, diciamo, questo ottimismo, anche se questo è un dato recentissimo, mettendo a confronto i dati di dicembre 2007 con quelli che abbiamo appena estratto e che riguardano dicembre 2008, la crescita del sistema imprenditoriale femminile, che è sempre stata, diciamo, costante negli ultimi 5 anni, quest'anno si è fermata allo 0,2%. Se pensiamo che a giugno la crescita delle imprese femminili era dello 0,45% e già a giugno c'era stato uno stop, diciamo così, nella crescita, anche le imprese femminili subiscono ovviamente questo momento di crisi, ma come sempre lo subiscono in modo, diciamo, più lento e in modo minore. Per quello che riguarda ovviamente la collocazione territoriale, diciamo l'andamento e la crescita, perché in questo caso la crescita dell'impresa femminile si conforma un po' a quella che è la crescita o la tenuta delle aree territoriali che riguardano il resto e l'universo delle imprese, quindi tengono un po' il centro e il sud, cresce di meno il nord-ovest, cresce ancora di meno il nord-est, quindi questo un pochino il quadro territoriale, ma quello che, diciamo così, è più interessante è certamente il quadro settoriale e anche la tipologia di impresa alla quale si riferiscono e in cui si impegnano le imprese femminili. Quindi intanto i settori, ecco, è interessante vedere che le donne finiscono per intraprendere, tendono ad intraprendere anche in settori che erano un tempo tipicamente femminili, come ad esempio il settore delle costruzioni. Questo significa che le donne anche sono tipicamente maschili. maschili, voleva dire. Sì, sì, chiedo scusa, sì, sì, tipicamente maschili. Questo significa che ovviamente le donne sono più coraggiose e quindi tendono a, come dire, ad avventurarsi in terreni che non sono per loro congeniali. E questo passaggio, diciamo, è confermato anche dal fatto che, per esempio, sempre di più nell'ambito delle scelte femminili calano le ditte individuali e però crescono le forme, diciamo così, societarie più strutturate, come ad esempio le società di capitali che crescono del 6,2%, o i consorzi che crescono del 6%. Quindi, diciamo, le donne, questo significa che le donne nel scegliere l'attività imprenditoriale fanno scelte più coraggiose, più moderne, più strutturate, e quindi che alla fine, come dire, la scelta di fare impresa non è più solo una scelta di autoimpiego, come si dice, o comunque di un modo per entrare o rientrare nel mondo del lavoro, ma è una scelta più consapevole. La quota rosa. Tiziana Pompei, dirigente Union Camere, ci stava dando gli ultimi dati, perché abbiamo visto è fornitissima su donne, crisi, occupazione. Allora, che cosa ci voleva dire di importante? Lei ci ha detto che le donne riescono a tenere meglio durante la crisi, questa in sostanza. Esattamente, le donne tengono di più, come sempre, tendono a crescere anche nei momenti di crisi, e anche il fatto che diciamo tengano anche in settori che sono diciamo tradizionalmente maschili è un fatto, diciamo così, rilevante, ma anche che la crescita, diciamo, si registra negli stessi settori nella quale si registra la crescita più generale. Questo significa che la scelta delle donne non riguarda più i settori più facili, diciamo quelli tradizionalmente a vocazione femminile, come può essere la sanità, i servizi sociali, che sono più facili per le donne perché sono quelli più congeniali, quelli nei quali, diciamo, hanno più capacità e possibilità di conciliare i tempi di vita e di lavoro, come si dice, ma anche per esempio nel settore del turismo, che è un settore che tiene, e questo significa, secondo me, che le donne iniziano a scegliere anche con le stesse modalità e con lo stesso modo di, come dire, di pensare degli uomini. Poi certamente questo è l'aspetto positivo, diciamo, della crescita e dell'atteggiamento delle donne nei riguardi della crisi. Poi naturalmente la crisi sta investendo, credo, tutto il sistema imprenditoriale, e quindi anche il fatto che le imprese siano cresciute la metà, diciamo tra dicembre, rassottata a giugno, la metà dello scorso anno, comunque dello scorso semestre, è certamente un dato, voglio dire, che bisogna tenere presente. Questo deriva anche dal fatto che le donne hanno un atteggiamento, diciamo così, diverso e forse anche più difficile con il credito, che oggi è il vero tema, insomma, sul quale poi si concentrano le riflessioni sulla crisi. Perché poi le donne, diciamo, innanzitutto hanno una scarsa, diciamo, esiste una scarsa fiducia del sistema creditizio nei riguardi delle donne, e questo è, diciamo così, confermato da diversi studi, e quindi significa che fanno fatica, diciamo, ad accedere al credito più di quanto lo facciano gli uomini, e quindi questo significa che in questo momento ovviamente sono più penalizzate rispetto all'universo delle imprese. E poi anche perché per le donne hanno una cultura, diciamo così, della gratuità, come si dice, cioè tendono a fare un po' tutto da sole, e questo per loro è un punto di forza, però in questo momento diventa difficile diciamo sostenere questo atteggiamento, quindi fare tutto da sole in questo momento può non essere possibile, e quindi può effettivamente poi incidere anche sulle scelte imprenditoriali. Insomma, abbiamo visto un panorama piuttosto complesso, quello che ci ha descritto Tiziana Pompei, dirigente Union Camere, che ringraziamo, e Laura La Posta, caporedattore del Sole 24 Ore, curatrice del rapporto Donne e Lavoro, sei ancora con noi ovviamente, ti volevamo chiedere, insomma, trova conferma un po' la tua teoria che le donne siano avvantaggiate nella crisi? Ma le donne, come al solito, faranno la loro parte nei momenti difficili. Una teoria interessante che ho anche su cui ho visto delle ricerche è il fatto che l'Italia sta superando meglio la crisi perché le famiglie italiane sono meno indebitate di quelle europee e americane, perché sono più parsimoniose, non fanno il passo più lungo della gamba, e in particolare sono le donne il decisore d'acquisto del 70% dei beni nelle famiglie, e quindi molte donne fermano stimolano gli uomini dal fare acquisti spropositati, e questo loro essere oculate sta in parte salvando il paese dalla crisi. Però io direi che bisogna studiare, proprio in questo momento c'è una grande necessità di riconoscere anche i propri limiti e cercare di capire come fare a migliorarli. Ecco perché nell'ambito del forum del 30 marzo Donne e Lavoro al Sole 24 Ore verrà presentato il primo, direi, master di Business Education for Women in Italia. È un master part time dal 21 maggio, 12 giornate, 2 giorni al mese soltanto, è un percorso di crescita manageriale e professionale per insegnare anche alle donne a programmare la carriera e fare in modo che la carriera non sia più casuale, insegnare alle donne che è necessario negoziare, perché nella vita non si ha quello che si merita, ma si ha quello che si negozia, e su questa strada le donne devono imparare tantissimo in termini di personal branding, come imparare a comunicare la propria immagine manageriale, di leadership, come costruire un team di lavoro in armonia, come costruire un piano di carriera, come gestire i tempi di vita e i tempi di lavoro, e infine come avere una leadership veramente strategica di alto profilo, mettendo da parte un po' un eccesso di individualità che frena tante donne e creano antagonismi pericolosi. Gli uomini fanno squadra e sanno cooptarsi a vicenda, e anche le donne devono imparare adesso a essere vincenti nei meccanismi di cooptazione, perché è un dato di fatto che dove ci sono concorsi, due casi su tre le donne vincono, dove invece ci sono meccanismi di cooptazione vincono quasi sempre uomini, non solo perché si cooptano tra di loro, ma anche perché sanno fare squadra, sanno usare linguaggi vincenti, si propongono in modo meno individualistico, e quindi facciamo anche autocritica, e bisogna imparare a pianificare una carriera su basi anche scientifiche, imparando dagli errori tipici delle donne. Senti Laura, ci ricordi allora quando c'è questo master? Ci dicevi 2 volte al mese? Sì, 2 volte al mese a Milano nella sede del Sole 24 Ore. Via Monterosa. Via Monterosa 91. Tutte le informazioni sono su www.formazione.ilsole24ore.com, e si tratta di 2 giornate a maggio, 2 a giugno, 2 a luglio, 2 a settembre, 2 a ottobre e 2 a novembre. E allora, scusa se ti interrompo, sì, perché ti volevo far ascoltare. Tu hai detto bisogna che le donne sopravvivano, giusto, in azienda? Imparare a uscire vive dalle trappole disseminate sul loro percorso. Ecco, e allora sentiamo come fanno le donne a sopravvivere in azienda. Sentiamo un attimo. Libretto rosa di sopravvivenza organizzativa. Non esisterà mai un'organizzazione perfetta, così come non esiste il principe azzurro. Le organizzazioni hanno un'irriducibile complessità che le rende spesso irrazionali. Questo non significa che non siano da modificare, ma smettetela di assumere quell'aria stranita quando incontrate aspetti irrazionali. Cercate di capirli e di cambiarli, se necessario. Accettare i limiti e limare il perfezionismo è condizione indispensabile per essere davvero produttive verso l'organizzazione e non autolesioniste verso se stesse. Le vostre emozioni sono un patrimonio inestimabile, danno gioia, capacità di approfondire, compassione, perché vi mettono nei panni degli altri, ma quando le emozioni sono lasciate libere di agire e non sono incanalate, diventano la vostra principale zavorra. State attenti ai ricatti affettivi, della serie «fammi questo lavoro per amicizia o per favore». Si può e in alcune situazioni si deve fare, ma è una vostra scelta, non un obbligo, naturalmente, a buon rendere. Ricordatevi che la vostra carriera come donne non riguarda solo voi personalmente. Serve da modello di ruolo per altre donne per portare agli alti livelli organizzativi uno sguardo femminile. Se seguite il modello maschile arriverete sicuramente a livelli elevati, avrete bonus e simboli di status, ma quasi sicuramente patirete di qualche forma psicosomatica, dall'insonnia alla dermatite. Alice in Business Land, diventare leader rimanendo donne, Maria Cristina Bombelli, l'autrice. Tutto questo per chi non può andare al forum del Sole 24 Ore il 30 marzo. Maria Cristina Bombelli, professoressa all'Università Bicocca di Milano, come le è venuto in mente di scrivere questo libro e perché? Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Beh, mi è venuto in mente perché sono tanti anni che lavoro con le donne, sono tanti anni che ascolto le loro parole. Forse per prima ho appunto progettato un percorso formativo al femminile e ho affrontato quelle che io allora chiamavo le fatiche al femminile. Ecco, sono molto d'accordo con Laura Lapposta e plaudo assolutamente l'iniziativa del Sole 24 Ore perché è necessario che le donne imparino alcune cose. E in questo libro ho buttato giù tutto quello che secondo me è indispensabile, in primo luogo capire bene le organizzazioni. Quindi quello che io ho cercato di dare alle donne in questo testo è una mappa che servirebbe anche agli uomini in realtà, perché tutto il manuale di sopravvivenza organizzativo potrebbe essere anche gestito al maschile, ma poi le donne hanno alcune peculiarità che il pezzo che voi avete letto in introduzione esplicita in maniera direi molto sintetica. Allora, noi la ringraziamo, abbiamo sentito quindi Alice in Businessland diventare leader rimanendo donne. Chiudiamo questa parte dedicata alle donne e leadership con Marina Porro, segretario confederale UGL. Allora, da parte del sindacato noi vogliamo sapere, questa crisi svantaggia le donne? Se sì, perché? Svantaggia le donne in modo duplice, svantaggia le donne perché le donne per buona parte oggi come oggi stanno in posizioni lavorative diciamo molto precarie, soprattutto le giovani donne, oppure in posizioni lavorative deboli se le donne sono più anziane, e chiaramente i primi settori che sono stati colpiti dalla crisi, a partire dal tessile a quello che può essere quello dei divani e quant'altro, hanno una grossa presenza femminile. La crisi colpisce di più le donne perché le donne hanno stipendi più deboli, perché le donne hanno meno contributi, perché le donne sul mondo del lavoro ci stanno più difficilmente. Quindi, insomma, la situazione non è certo rosea. E Laura Lapposta, per chiudere questa lunghissima parte dedicata a talento e leadership al femminile, ti vogliamo richiedere, per chi è in ascolto, il master si farà, mai detto, a maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, due volte al mese nella sede del Sole 24 Ore, giusto? Sì, esatto, a Milano, e oltre a i docenti di strategia di comunicazione, di management e anche di immagine, ci saranno confronti con e interviste pubbliche con donne leader che rappresentano veramente dei modelli da seguire. Voglio ricordare Rosalba Casiraghi, presidente di NED Community, l'associazione dei consiglieri d'amministrazione indipendenti e membro del consiglio di sorveglianza di Intesa San Paolo, Roberta Cocco, direttore marketing centrale di Microsoft Italia, Elena David, amministratore delegato di Una Hotel, Chiara Grosselli, direttore marketing e comunicazione di IBM Italian, Laura Mirachian, direttore generale della Direzione Generale Paesi dell'Europa del Ministero degli Affari Esteri, Maria Concetta Patti, amministratore delegato di Valtour, signora della Finanza Italiana, Maria Pierdicchi e tante tante altre. Quindi per chi vuole veramente imparare a diventare manager pur essendo donna, perché queste due cose non devono più essere in contrasto, è questo poi fondamentalmente, Laura, lo scopo. Assolutamente, dobbiamo avere tutto, vita e lavoro. Vita e lavoro, grazie a Laura Lapposta, caporedattore del Sole 24 Ore, curatrice del rapporto Donne e Lavoro, moderatrice lunedì 30 marzo del terzo forum cultura d'impresa del Sole 24 Ore su talento e leadership femminile nel cambiamento e nell'innovazione. La quota rosa. E dopo aver parlato di talento, leadership al femminile, di donne imprese, di donne crisi, in quest'ultima parte della trasmissione vogliamo affrontare dei temi più leggeri, diciamo le donne tra il festival e il teatro. E partiamo subito con Massimo Ivaldo, direttore artistico della rassegna Donne per Tre, il teatro incontra le donne, che è in scena a Pietra Ligure. Stasera ci sarà anche il ritorno a teatro di Lella Costa. Qual è lo spettacolo e di che cosa parla lo spettacolo di questa sera? Ma lo spettacolo di questa sera si chiama Ragazze, di e con Lella Costa. La scrittura è della costa e che in qualche modo spazia, diciamo, drammaturgicamente con la regia comunque di Giorgio Gaglione fra diversi autori, quindi in qualche modo attraverso Shakespeare, Eliot, fino ad arrivare a Italo Calvino, ricostruirà questa figura di donna che poi porterà in scena, diciamo, con le sue parole, con il suo modo interpretativo, uno spettacolo dove c'è Lella Costa in scena da sola. Quindi è un monologo? Sì, sì, sì, un monologo. Quanto dura? Un'ora e mezza. Un'ora e mezzo da sola in scena, quindi insomma una grande prova. Però non è il vostro unico appuntamento, voi avete un altro appuntamento. Certo, l'ultimo appuntamento, quello diciamo dedicato più alla mamma, perché i tre appuntamenti erano appunto sulla festa degli innamorati, sulla festa della donna e quello della mamma, e poi il 7 maggio con Danila Satragno, un appuntamento più musicale, nel senso che lei è una cantante jazz di fama italiana, ha cantato con De André, con Pino Daniele, con Mango, e in qualche modo lei dipinge musicalmente un ritratto degli ultimi 50 anni delle canzoni italiane dedicate appunto alla mamma. Quindi un tema sempre verde, un evergreen, ma perché Massimo Evaldo, direttore artistico, uomo, è venuto in mente a Massimo Evaldo di fare Donne per Tre, il teatro incontra le donne? Il teatro discrimina le donne? Ci vuole dire questo? Io non lo so se il teatro discrimina le donne, io potrei dire che sono d'accordo con voi e sono convinto che se le quote rosa in qualche modo nel mondo, e qua penso ad un mondo politico, penso ad un mondo sociale, evidentemente anche artistico, fosse in qualche modo più femminile, farebbe bene, e direi anche soprattutto agli uomini. Io personalmente 4 anni fa scrissi uno spettacolo che è stato il primo di queste tre rassegne, che si chiama appunto Parlami d'amore Maria, dove racconto, anch'io in forma di monologo, diciamo a più voci perché interpreto delle donne, racconto delle storie di donne, diciamo di una certa età, anche se io le chiamo ragazze, di 80, 90, anche 100 anni, che hanno terminato le loro vite nelle case di riposo, e dove io, lavorando come animatore, ho trascritto, registrato questi racconti d'amore, soprattutto, quindi le serenate, quindi il racconto dell'unico uomo avuto nella vita, il marito, per interpretare queste donne. Proprio all'interno di una casa di riposo c'è il luogo dove vorremmo in qualche modo, almeno come luogo comune, no, che i sentimenti si smettessero, mentre invece il bisogno di affetto, di scambio affettivo, la stessa sensualità, anche molto boccaccesca, è viva e assolutamente presente. Insomma, non è che quando si invecchia si rimbambisce, ecco, questo in sostanza, queste donne erano belle arzille, delle belle signore arzille, quello che ci sta dicendo. A cui tra l'altro piaceva anche molto cantare, quindi ci sono alcuni pezzi che in questo spettacolo che va ancora in scena adesso, in questi giorni, domani sera siamo al Teatro Govi di Genova, le canzoni, Parlami d'amore Mariù, Baciami piccina, Ma le gambe, quindi canzoni anche appunto significative nel senso dell'affettività. Ma chi recita a 80 anni? No, chi recita compie 40 anni. Vabbè, ho capito, perfetto. Sono io che interpreto queste donne. 80 anni in su. Esatto. Ah, quindi un uomo che interpreta le donne. E allora noi ringraziamo Massimo Evaldi e ricordiamo quindi l'appuntamento Donne per Tre, il teatro incontra le donne stasera a Pietraligure, mentre quest'altro show al teatro Parlami d'amore Maria domani sera al Teatro Govi di Genova Bolzaneto alle ore 21. Perfetto. Rosanna Ceri invece è organizzatrice del festival Migrant Woman tra Siena e Montepulciano, anzi addirittura però le prossime tappe saranno Londra e Lisbona. Che cos'è questo festival Migrant Woman? Beh, intanto diciamo che Migrant Woman nasce da una collaborazione tra artisti, il Canteone Teatri di Montepulciano, che è in provincia di Siena, e Motus, che è una compagnia residente al Teatro Comunale di Siena. Dalla collaborazione intorno a questa idea, questi due coorganizzatori italiani hanno poi trovato altre collaborazioni con altri organizzatori a livello europeo, quindi il Bollywood Pictures di Lisbona in Portogallo e la Zecolaura Theatre di Londra nel Regno Unito. Tutti insieme abbiamo ragionato su questo aspetto della migrazione al femminile. Quindi ci interessava moltissimo andare ad analizzare l'integrazione, il dialogo interculturale tra la cultura del paese d'origine e quella del paese accogliente, però dal punto di vista femminile, nella sua condizione di duplice minoranza, diciamo, cioè come donna nella cultura di appartenenza e come migrante in quella del paese che la ospita. Sì, ecco, chi ospitate voi tra Siena e Montepulciano e quando ci saranno, quali sono le date di questo festival in Italia? Dunque, questo è un festival anch'esso migrante, quindi diciamo che il core, quello che noi chiamiamo Mater Festival, si svolge in Italia dal 14 al 22 marzo tra Siena e Montepulciano. Mentre poi diventa il Migrant Festival, che va a Lisbona a giugno e a Londra a luglio. In ogni caso ci saranno due spettacoli di teatro, uno spettacolo di danza, un documentario, ma anche un grande convegno nazionale ed internazionale, tre tavole rotonde e altri eventi che vengono appunto riuniti in questi tre festival europei. Quindi è una cosa molto grossa che ha avuto l'appoggio della Commissione europea attraverso il programma Cultura 2007-2013, con dentro le istituzioni anche locali, Comune di Montepulciano, Comune di Siena, insomma, ma anche quelle europee, quindi la Regione Toscana, la Società della Salute della Val di Chiana, la Fondazione Internazionale del Cantiere d'Arte di Montepulciano. Senta, ma le donne che arrivano, da quali paesi arrivano? Le donne migranti. Ah, qui noi non abbiamo posto limiti. Per noi le donne migranti arrivano da tutto il mondo da cui arrivano, da tutto il secondo e terzo mondo da cui arrivano, diciamo. Quindi dalle donne migranti africane alle donne migranti del Maghreb, piuttosto che le donne del Sud America. Per esempio, Motus mette in scena un lavoro che si chiama Iris sotto il mare, che è un lavoro dedicato a Iris Noelia Palacio Cruz, che è la ragazza honduregna che è morta nel mare dell'Argentario per salvare la bambina che stava accudendo come babysitter. Quindi, e lei era una migrante senza permesso di soggiorno, a cui il permesso di soggiorno è stato dato da morta, insomma. Come una sorta di medaglia, purtroppo. Allora, io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla Quota Rosa @radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.